Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Caro chef, come stai? Buongiorno, bene Pier, io sto bene, sono stato mangiato benissimo questa settimana, anche tu vedo. Sì. Quantità cosa giuste, vedo che sei in forma, no? Per cui bene. Senti, oggi siamo in Trentino Alto Adige, però io sono un po' emozionato. Non poteva mancare, anch'io. Sono un po' emozionato perché anch'io. I personaggi grandi qui ne abbiamo avuti tanti, ma qui siamo di fronte a una leggenda assoluta, un uomo assolutamente. Che insomma ha contribuito alla passione per la montagna, che ha compiuto imprese epiche, che ha superato tutti i limiti, credo che insomma non ci sia definizione migliore, ed è Reinhold Messner, al quale do il benvenuto. Come va? Benvenuto. La bufera è finita, c'era bufera stanotte, adesso il tempo è bello, è tutto tranquillo. Lentamente mi cerco un indirizzo per andare a mangiare la sera col figlio. Allora, quante bufere hai vissuto nella tua vita di alpinista e di appassionato di montagna? Centinaia, purtroppo. ho fatto almeno 3.500 salite, specialmente nelle Dolomiti a casa nostra, ma più tardi anche nell'Himalaya, nelle Ande. Di bufere ho vissuto in tutti i modi, purtroppo. Come si nutre Reinhold Messner prima di iniziare una salita, prima di iniziare un suo... Dipende che cosa faccio. Se vado in montagna mi tengo abbastanza asciutto, e in montagna si mangia poco, più in alto si va si mangia sempre meno, si beve minestra con energia naturalmente, o anche il tè. Sull'Everest nella solitaria mi sono ridotto su quel tè dei tibetani salato con il burro rancido che viene messo dentro. È una cosa alla quale bisogna abituarsi, però va molto bene perché attraverso il sudore, ma anche attraverso il fiato molto veloce, l'iperventilazione, perdiamo tanta acqua, tanto sale che deve poi anche ritornare. Certo. I tibetani sanno come hanno vissuto per migliaia di anni e come è andata con questa forma. Mentre se parto per l'Antartide o per la Groenlandia, mi faccio prima non grasso, ma aumento di 10 kg perché questo grasso sotto la pelle. Ho letto che c'è una differenza, no? fra le grandi montagne e l'Antartide, proprio dal punto grande di vista. Differenza. In Antartide ho una slitta e posso tirarmi dietro il mio vivere e il carburante. Certo. E devo mangiare grasso perché servono 6.000 calorie al giorno, kilocalorie al giorno per sopravvivere. In sull'Everest, sì, in campo base sto bene perché mangio patate, la cava degli yak, quello che c'è potendo comprare dai contadini locali. 6.000 calorie che poi consumi quando ti muovi, quindi c'è consumo... No, consumi specialmente contro il freddo perché fa molto freddo e devi anche mettere un po' di calorie per tenere caldo il corpo. E poi con la fatica di camminare, di andare, queste 6.000 calorie arrivano da una cucina cucinata o da prodotti che tu trovi sulla strada, cioè sulla via che tu fai? Non c'è niente in strada, non c'è. Ok, ma prima di partire ti fai un qualcosa. Non c'è l'autogrill. No. Noi abbiamo diofilizzati e mettiamo dentro questo volevo sapere. Un po' di pasta, un po' di quello. C'è la preparazione per ogni sera, per due persone in questo caso. 12.000 calorie, chilocalorie naturalmente, buttiamo questo sacchetto dentro nella tenda, poi per due anni si scioglie la neve, poi si mette dentro questo pacchetto e c'è una stew in inglese, una minestra molto molto grassa con oliva, olio d'oliva, anche tutto quello che di grasso c'è. In mattinata, poi la sera mangiavo il pasto più importante. E in mattinata prendiamo un po' di caffè anche per tenere viva la digestione e poi mangiamo il lardo e diventa una cosa squisita, certo. Bellissima, perché puoi mangiare il lardo anche a 30 gradi sotto zero, un pezzo di pane duro alla sudtirolese e poi il resto della serata prima, poi si cammina per tutto il giorno avendo un po' di questi... come si dice, cubetti che danno un po' di energia, un po' di energia supplementare. Sì. Lo diciamo a quei pochi che non lo sapessero, Reinhold Messner è stato il primo ad aver conquistato tutti i 14.800 del mondo senza ossigeno supplementare. Se non sbaglio, l'ultima impresa, cioè il 14esimo, l'hai conquistato l'ottobre del 1986. Nel maggio del 78 sei andato sull'Everest senza ossigeno, una cosa che sembrava impossibile. Hai conquistato gli 8.000, il Nanga Parbat in solitaria. Insomma, ma la cosa che mi io volevo capire stupisce, a cosa a 5 si anni, pensa? No, hai letto, Pier, a 5 anni a 3.000 metri. Sì, 5 anni. La montagna nel destino, ma in quelle situazioni lì ce ne sono state alcune estreme, altre anche drammatiche, lo sappiamo bene, ma che cosa c'è? C'è una componente atletica, immagino, no? Di sforzo fisico, di esplorazione, c'è anche una componente filosofica, di solitudine. La cosa più importante è capire che l'alpinismo è un fatto culturale, è la tensione fra la natura umana, dico natura umana, tutto quello che c'è di regole dentro di noi, non so chi ha dato queste regole, però ci sono, senza che sono scritte da qualche Parlamento o dalla Chiesa. Certo. E c'è la montagna, che è una cosa infinitamente più grande, più pericolosa di tutto quello che abbiamo dentro di noi. E questa tensione ci spinge per fare i tentativi, per accettare questa sfida di forse andare sull'Everest senza la maschera o anche attraversare l'Antartide, perché durava molto di più. È tutta un'altra forma di avventura. Io sono nato nelle Dolomiti, è vero, a 5 anni ho fatto il primo 3.000, naturalmente con i genitori, e poi mi sono spinto sempre più al di là, facendo prime ascensioni nelle Alpi, in tutto il mondo, andando sulle montagne più alte, attraversando i grandi, i grandi deserti, anche i grandi ghiacciai. In Antartide si bisogna dire che sono zone ghiacciate di 2.800 chilometri che abbiamo attraversato, e ho vissuto di tutto, anche fame per una settimana senza neanche un boccone di mangiare. Immagino. Perché sono vissuto da bambino in una situazione abbastanza semplice o molto semplice. Ho imparato da piccolo a mangiare tutto e a mangiare poco o anche niente per un certo periodo. Avevate i polli, no? Avevate un piccolo allevamento. Noi, il padre teneva un pollaio piccolo, ma doveva farlo perché aveva 9 figli. 8 ragazzi, una ragazza, e noi abbiamo collaborato da 4 anni in poi. Io a 4 anni sono andato nel bosco a prendere la legna per riscaldare la stufa d'inverno. Fantastico. Se posso fare una domanda veramente, ma il mare ti piace? No, il mare non è il mio mondo, io non so neanche nuotare. Magari al mare non sono mai andato e non andrò. Io sono uomo della montagna. La prossima impresa? Sono ritornato ieri dal Nepal, dal Bhutan, e ho fatto un viaggio perché inizio un'altra vita, per dare aiuto alla gente locale nel momento nei Carpazi, nell'Himalaya, a far raccontare loro la loro storia delle loro montagne. Perché noi abbiamo una responsabilità per le prossime generazioni, noi dobbiamo difendere la narrativa del vero traditional alpinism in inglese, dell'alpinismo tradizionale, perché l'alpinismo diventa sempre più competizione, diventa sport, diventa turismo. Quello che succede sull'Everest oggi è turismo, non è alpinismo. E nelle Olimpiadi a Tokyo faranno vedere non sono racciatori, sono questi sportivi bravissimi che fanno la competizione sull'arrampicata su una parete di plastica di 15 metri. Se poi la gente pensa che questo è alpinismo, servo io a dire non è alpinismo, è un'altra cosa. E fai bene, e fra un attimo torniamo su questo tema, perché insomma fare qualcosa per le popolazioni, amare la montagna a 360 gradi, quello che dice Reynolds è fondamentale. Insomma, l'alpinismo è una filosofia, è un modo di amare la natura, la montagna, il limite, il coraggio e la paura, seguirla, immagino, non contrastarla e raccontarla. Fra poco ripartiamo da qui. Mangia come parli, mangia come parli. allora siamo con Reinhold Messner, al quale Oldani voleva cucinare dei gamberi crudi. No, direi di no. Abbiamo gamberi di fiume, perché no? Gamberi di fiume. Nel primo piatto c'è comunque, ci sono le uova di trota, no? Frittata uova di in brodo. Naturalmente. Ma Reinhold, qual è il tuo piatto del cuore? Il mio piatto del cuore rimane l'agnello. Sì. Cucinato per una settimana, no, per un giorno intero in Val Zinales al Finailhof, al Maso di Finail. L'hanno fatto quando c'era ancora la vecchia madre, che c'è ancora però non fa più la cucina, e aveva un modo di mettere la carne dell'agnello nei crauti. Sì. E questo grasso della carne si metteva con questi crauti, se con sotto fiamma piccola, lo tenevi sul fuoco per 10-12 ore, o anche per la prossima giornata. Sì. Perché questa cosa rimaneva sempre. Sì, avevo un gusto che è un gusto della mia infanzia ed è il gusto di quello che io amo. Poi anche i krapfen, non è possibile ripetere in italiano. No, non lo so dire. Cos'è lei? Non ho capito un krapfen. Nessun italiano sarà capace mai a esprimersi su questo piatto. Insomma, che ricetta è? È una ricetta che metti, che sai, con le patate, come la base della pizza, però fatto in patate. Sì. E si mette nel burro fuso. Sì. E poi caldi si tirano fuori e si mette dentro ancora i crauti. Ed inverno si mangia poi con le mani, come in Asia, quasi dappertutto. E questi crauti dentro di questi platten, di questi. Non è un dolce, è una cosa tipica, unicamente di moda da noi in Sud Tirolo. Era già dimenticato questo piatto, e poi il Vaginale l'ho ritrovato e sono molto contento. Chiedo adesso dappertutto, quando vado a mangiare, chiedo: sapete ancora fare? Perché non fate? Perché non c'è sul menu? E qualche donna ha iniziato a farlo e sono contento, perché io penso che oltre al fatto culturale, che ogni valle, ogni zona ha la sua cultura, specialmente non dobbiamo dimenticare le ricette vecchie, perché sono ricette molto intelligenti. È giusto prendere gli spunti dalla tradizione per poi aggiornarli, perché le calorie, le energie, le calorie che avevamo bisogno tanti anni fa, anche vivendo sulle montagne, sono diverse da quelle di cui una persona ha bisogno oggi, anche perché il clima è cambiato. Completamente. Sono tutto d'accordo. Grazie Reinhold, un piacere, devo dire un onore. Grazie, perché grazie. Qui siamo di fronte veramente a una delle leggende assolute nel suo mondo. Questa cosa che non è mai stata al mare è incredibile comunque. Ma è stato al mare 6.000-7.000 kcal, non sai cosa... No, forse io le so. Oldani, forse quindi io lo so. Domani potremmo iniziare. Forse io la traversata, so, infatti, devo dire che fra l'alta montagna e l'Antartide, meglio l'Antartide, dal punto di vista capito che si mangia di più. Sì. Stiamo scherzando, ovviamente. È un percorso incredibile, quello degli alpinisti. È un percorso ovviamente fisico, perché sono grandi atleti. Filosofia pura, ma è anche un percorso filosofico di ricerca di se stessi. Prova a pensare una settimana senza mangiare e resistere, stare comunque al passo e tenersi. Non farmi pensare a queste cose, che poi mi viene subito il nervosismo, e anzi l'appetito. Allora, abbiamo il nostro prossimo ospite. Sì, ce l'abbiamo già collegato. Daniele Leonardi, il titolare di Trota Oro. Eccolo. Perché? Buongiorno. Perché? Buongiorno, allora, Daniele. Daniele, facciamo una cosa, sentiamoci la ricetta del maestro Oldani: frittata in brodo, uova di trota e polvere di origano. Vediamo come se la cava. Trota d'oro è questa grande scoperta che feci qualche anno fa, una qualità assoluta, delle uova buone, croccanti, insomma hanno tutto quello che è di qualità per poter fare un piatto del genere come questo: frittata in brodo, uova di trota, polvere di origano. È un mix, prendiamo le nostre uova, tipo due uova da 70 grammi più o meno, con un po' di sale, 2,5 decilitri di latte, 80 grammi di farina di grano tenero, una macinata di pepe nero, uniamo tutti questi ingredienti, sbattiamo bene, a parte avremo fatto scaldare una noce di burro in un padellino abbastanza grande, aggiungiamo questo nostro apparel, in gergo si chiama, di uova, farina e latte. Un apparel che non è una canzone. Un apparel. Quindi facciamo la nostra frittata molto fine, la leviamo dalla padella, la teniamo a parte. A parte prepariamo il nostro brodo fatto con un litro di acqua fredda, 200 grammi più o meno, 300 grammi di cubetti di ghiaccio, due stelle d'anice, due foglie di alloro secco, 50 grammi di buccia di limone, 200 grammi di finocchi un pezzo unico, 200 grammi anche qui di un pezzo unico di sedano bianco, un ramo di rosmarino, 80 grammi di scalogno, 4 pezzi più o meno, e poco sale. Mettiamo tutti questi ingredienti in una pentola e facciamo sobbollire per un'ora circa. Fermiamo la pentola, anzi la leviamo dal fuoco, la lasciamo riposare, avremo ottenuto un brodo molto chiaro e molto profumato naturalmente a livello di spezie e di vegetali. Per cui cosa faremo? Prendiamo la nostra frittata, la tagliamo a fette molto molto sottili, la adagiamo in quattro tazze da brodo, aggiungiamo il nostro brodo vegetale e terminiamo con le uova di trota, che daranno la parte croccante e quindi la testura molto importante a questo piatto, che è un piatto naturalmente è un piatto molto delicato, e poi una polvere di origano che avremo preparato frullando l'origano secco, quindi per dare l'intensità e la firma tout court di questo che piatto. Dici, Daniele, titolare di Trota Oro, che è questa piccola azienda familiare, no? Nata ormai da più di 30 anni, con tutti questi marinati, questi affumicati, che ne pensi del piatto del maestro? Da provare. Più che ne pensi, io direi un consiglio di queste uova di Trota, che sono un prodotto molto molto importante, oramai diventato nella mia cucina. Azzardo a volte ad abbinarle al dolce, quindi un dolce di frutta con le uova di trota, quindi questa è parte della mia ultima carta al ristorante. Quali sono i progetti di prodotto di un prodotto del genere come l'uovo? Queste sono uova messe in salagione, giusto? Sì, noi non prendiamo altro che le uova spremute dalle trote, non vengono ovviamente fecondate, è un prodotto non fecondato. Facciamo dei lavaggi con del sale e zucchero e nient'altro, quindi non vengono nemmeno pastorizzate e restano belle croccanti per quel motivo. Sapidità, ma io direi la consistenza, perché io sono arrivato a voi, ho selezionato il vostro prodotto per la consistenza dell'uovo. Sì, quello è una lavorazione particolare che abbiamo perfezionato in azienda, è un po' un nostro segreto per le uova proprio, riuscire ad avere questa croccantezza che ricorda un po' le uova di pesce lavorate in Giappone. Esatto, io feci una volta una cena a quattro mani con un collega, il quale portò delle uova di salmone che erano naturalmente un po' morbide, sai, quando non sono freschissime, eccetera. Le mise in sakè e aceto di riso e dopo tipo 5 minuti, levate da questo sakè e aceto di riso, c'era la consistenza dove l'uovo di salmone rimbalzava sul tavolo. E vedi questa consistenza, questo metodo utilizzando le vostre uova. Sì, sì, la lavorazione è quella che porta quella croccantezza dell'uovo. Quindi il segreto, quindi questo uovo, ripeto, in un piatto del genere come questo di brodo e di questa frittata molto molto fine, dove c'è una consistenza molto tenue, viene aggiunta, oppure aggiungo queste uova dove danno appunto quell'altra parte di bontà del piatto, che appunto sono le consistenze. Assolutamente. Va bene, tantissimi prodotti fantastici, io impazzisco per la bottarga, ve lo dico, è giusto. Ma magari faranno anche farete una bottarga di uova di trota, no? In previsione. Diciamo, rispetto a una bottarga di tonno di mugine, molto più delicata, perché essendo un pesce d'acqua dolce è più dolce, anche il pesce è più delicato, però è apprezzato anche la bottarga di trota. Fantastico, va bene. Grazie. Ci fermiamo solo per un attimo, poi ripartiamo subito, fra poco, perché abbiamo ancora grandi ricette, tantissime cose Canederli, di cui Canederli. Parla Canederli, addirittura arrivano Canederli, benissimo, grande opportunità, fra poco. Radio 24 vi accompagna in tutte le vostre passioni. ogni domenica pomeriggio con Passione Domenica, la domenica che ami vivere. Passione Domenica. Si inizia alle 14.30 con Passione per gli altri, cronache dal sociale raccontate da Cristina Carpinelli in Diario di un giorno. Alle 15, Passione in viaggio. Valeria De Rosa vi porta in giro per il mondo con Globetrotter. Alle 15.30 è l'ora della Passione in verde, con Roberta Pellegatta e il suo giardino segreto. Alle 16, con tuta e scarpe, inizia Passione in movimento. Si parte in bicicletta con Alessandra Schepisi in A ruota libera. Poi di corsa con Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino in Personal Best. E infine, con Passione in gioco, Dario Ricci vi racconta i miti e le verità dello sport in Olimpia. Alle 17 al via Passione in campo. La cronaca delle partite in diretta con Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano in Tutti convocati. E per chiudere alle 19, Gegè Telesforo e il suo soundcheck vi aspettano in Passione Musica. Passione Domenica con Radio 24. La domenica che ami vivere. Radio 24. La passione si sente. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, in attesa dei Canederli che stanno per arrivare, c'è un nostro amico. C'è un nostro amico che è Matteo Lunelli, presidente amministratore delegato delle cantine Ferrari. Fra l'altro, in questo momento sei anche presidente di Alta Gamma. Lo vogliamo ricordare. Hai raccolto l'eredità di. Vogliamo dire cos'è Alta Gamma? Glielo chiediamo a lui: cos'è Alta Gamma? Per chi non lo sapesse, è un. Anzitutto, buongiorno. Alta Gamma è una fondazione che raggruppa 107 marchi dell'eccellenza del Made in Italy in diversi settori, dalla moda al design, all'alimentare, appunto ai vini, all'automobile, quindi insomma è una fondazione che raggruppa gran parte dell'eccellenza del Made in Italy e che si occupa appunto di sostenere e promuovere la crescita di quella che viene definita l'industria culturale creativa italiana. Assolutamente, quindi è bisogna fare squadra, no? Perché poi spesso dell'Italia anche un po' superficialmente si dice che siamo una serie di geni assoluti, di creativi che non sempre riescono a fare squadra insieme come magari fanno altri popoli. È un po' questa la partita? Assolutamente, noi uno dei nostri slogan è cooperare per meglio competere. Dentro l'Alta Gamma ci sono anche aziende che sul mercato poi sono in competizione tra loro, però dentro Alta Gamma, all'interno di Alta Gamma, troviamo sui valori comuni del Made in Italy spazio per la collaborazione, spazio per dialogare, spazio per creare delle sinergie. C'è secondo me tanta opportunità in Italia e all'estero di creare sinergia all'interno del Made in Italy e di questo Alta Gamma si vuole occupare. Anche perché i settori, scusami Davide, sono apparentemente diversi, ma alla fine il concetto è lo stesso. Eccellenza, il concetto eccellenza. È l'eccellenza, è il piacere. L'Italia, insomma, lo sappiamo, non ha delle materie prime, per esempio, per l'industria pesante di un certo tipo, non ha delle fonti naturali così clamorose, ha però una capacità di fare manifattura in maniera eccellente su tutta una serie di cose che riguardano il piacere della vita delle persone, che può andare dal guidare una bella macchina ad avere una bella esperienza in un bel posto, a mangiar bene, a vestirsi bene. A questo proposito, volevo dire che ne faccio parte perché mi hanno premiato qualche anno fa. Questo è un brutto episodio, Matteo, mi raccomando. Ma noi abbiamo quelli che chiamiamo i membri onorari, abbiamo dei grandi chef, tra cui anche Davide. Esatto. Insomma, Alta Gamma vuole comunicare e promuovere il bello, il buono e il ben fatto. E insomma, Davide è un ambasciatore del buono, no? Certo. Però adesso siamo in Trentino. Grazie, Presidente. Trentino Alto Adige. Grazie, Presidente. 1902, come nasce Ferrari nel 1902, 118 anni fa? E soprattutto, che cosa è diventata? Nasce dal sogno di un uomo. Guarda, nasce dal sogno di un uomo che si chiamava appunto Giulio Ferrari, che in una piccola cantina che stava nel suo palazzo in centro alla città di Trento inizia a produrre poche bottiglie con il metodo classico, che è appunto un metodo che prevede la seconda fermentazione in bottiglia per creare delle bollicine di eccellenza, e questo metodo l'aveva preso in Francia. Infatti aveva studiato enologia prima in Italia, si era specializzato a Montpellier e poi aveva passato un periodo all'interno della Champagne dove appunto aveva appreso questa tecnica, e tornato in Trentino lui capisce la straordinaria vocazione del nostro territorio per la creazione di bollicine metodo classico. Quindi tutto parte da questa sua intuizione. Devo dire che dopo oltre un secolo, da questa intuizione, da questo sogno, non solo è nata la Ferrari, non solo sono nate le cantine Ferrari, ma è nata la Trento Doc, di cui oggi certo. fanno parte più di 50 cantine, quindi insomma è nato un intero, tra virgolette, distretto delle bollicine di eccellenza qui in Trentino, anzi di quelle che noi, a noi piace chiamare le bollicine di montagna. Le vostre scommesse più importanti adesso quali sono sulla parte di vini, di prodotti? Posso accennare il rosé, che a me piace tanto. Beh, no, sul rosé ci siamo, noi ci siamo, da sempre siamo partiti con il, con lo Chardonnay, tra l'altro Giulio Ferrari è stato il primo a portare lo Chardonnay in Italia, però poi è stato il, c'è stato un grande interesse e amore per il Pinot Nero, ed è proprio il, con il Pinot Nero che noi creiamo appunto il rosé. Il Pinot Nero viene vinificato in rosato, in blend con lo Chardonnay, e quindi abbiamo iniziato nel 1972, con la vendemmia del 1972, a fare il primo rosé. L'ultimo nato tra i rosé è addirittura la versione rosata del nostro Giulio Ferrari, riserva del fondatore. Ed è un vino che secondo noi rappresenta e racconta tutta la, la vibrante intensità di quello che è il Pinot Nero di montagna del Trentino. Mi dai... tra le sfide per... Scusa. Come? No. Volevo un numero per dare un po' la dimensione, anche dal punto di vista dell'esportazione, perché è uno dei marchi italiani più famosi del mondo, no? Ma allora, ti ringrazio, noi siamo leader nelle bollicine italiane di eccellenza. Oggi appunto siamo cresciuti in oltre un secolo senza mai scendere a compromessi con la qualità, quindi oggi anche la produzione ha raggiunto una dimensione molto rilevante, perché facciamo più di 5 milioni di bottiglie che esportiamo in tutto il mondo. E le nostre sfide in parte, prima di tutto è quella di portare Ferrari sempre di più oltre confine, perché siamo leader in Italia ma vogliamo sempre di più crescere oltre confine in nuovi mercati e quindi crescere le esportazioni. E poi c'è una grande sfida, penso, sul tema della sostenibilità. Noi su questo ci siamo impegnati negli ultimi anni in modo particolare, abbiamo tutti i nostri vigneti che sono già certificati biologici ed abbiamo coinvolto in questo progetto di sostenibilità tanti, cioè i nostri conferenti, perché Ferrari è anche fatto con le uve di tante famiglie, di tanti viticoltori del Trentino che conferiscono a noi le loro uve, che sono nostri partner, e queste famiglie ci hanno seguito nel progetto di sostenibilità e oggi seguono quello che è un protocollo di viticoltura sostenibile di montagna, in cui abbiamo bandito completamente tutti gli insetticidi, acaricidi, l'utilizzo della chimica, appunto per puntare ad una viticoltura sostenibile. E questa è una grande sfida, perché vuole conciliare l'obiettivo di avere uve di eccellenza con la tutela dell'ambiente e soprattutto della salute di chi lavora in campagna. Bene, allora io prendo la palla al balzo. Canederli, Topinambur, Salsa di Aglio Nero, Albicocca Secca, a questo punto la dedichiamo a Matteo, a Ferrari e a Rosé. Vai, grazie, vai. Matteo. Grazie Matteo. Allora un brindisi. Assolutamente, grazie. Vai con i Canederli, facci sognare. Ciao, allora, Matteo. Iniziamo dalla salsa di Topinambur, 200 grammi Topinambur cotti, anzi sbucciati prima, tagliati a piccoli pezzi, cotti con 2 decilitri di latte, dopodiché levati dal fuoco, frullati per ottenere una salsa cremosa molto setata, aggiungiamo un pizzico di sale e teniamo da parte. In un altro pentolino facciamo sciogliere 30 g di burro con un pochettino di cipolla, tipo 20 g di cipolla, 2 foglie di salvia, 10 g di aglio nero, facciamo soffriggere leggermente e più o meno 40-50 g di speck tagliato a fettine sottili per dare un po' il profumo dell'affumicato. Una volta che abbiamo fatto questa infusione con questi ingredienti, quindi il burro sciolto, metteremo, coleremo sulla nostra salsa di Topinambur appunto il burro profumato, in maniera tale che questa salsa settata e composta e molto, molto intensa prenderà un po' più di personalità. A parte, il procedimento per i canederli è molto facile: 220 g di mollica di pane spezzettata e messa a bagno con 5 cl di latte tiepido, 140 g di uova, più o meno 2 uova, del sale fino, noce moscata, amalgamiamo il tutto. Io lo farei con l'utilizzo di una spatola di legno, in maniera tale che il pane si spezzetti per bene e possa essere poi lavorato al meglio. Otteniamo quindi un composto, componiamo delle piccole sfere da 2 cm che faremo cuocere in acqua bollente appena salata per più o meno 5-6 minuti. Li scoliamo, li teniamo da parte. E poi la cosa particolare di questa ricetta classica è l'arrostitura, per cui una volta che li scoliamo dall'acqua, una noce di burro in un padellino, li facciamo rosolare in maniera tale che si possa formare una crosticina sulla parte esterna del canederlo, per cui all'interno morbido e all'esterno leggermente croccante. E cosa faremo? Poi metteremo i nostri canederli in un piatto fondo con alla base la salsa di Topinambur, una grattugiata di buccia di limone per dare la freschezza e quell'aroma un po' più intenso e delle piccole, dei piccoli pezzi di albicocca secca, giusto per dare dolcezza. Perfetto. Per cui canederli, non più in brodo, ma arrostiti. Credo che ti stia ascoltando Martin Obermalsoner, chef del ristorante 2 stelle Michelin Jasmine di Chiusa. Ciao Martin. Martin, ciao. Bighez, come va? Tutto bene. Tutta la grande. Ti è piaciuta questa rivisitazione dei canederli fatta da Aldani? Bellissimo piatto, direi. Allora facciamo cosa, come iniziamo, Martin? Ci dai una ricetta o ci dai un segreto di come lavorare in maniera tipo, quella materia prima, quella no? materia prima di quel luogo? Io mi sono azzardato a mettere un po' di limone e un'albicocca secca. So che dalle vostre parti magari limoni non fanno proprio parte della vostra cultura. Sì, non del tutto, però direi che un pizzico di freschezza ci vuole. Sta anche molto bene. Mi dici una cosa, Martin, la cucina di montagna, no? Tu l'hai contaminata, veramente ne hai ritrovato l'essenza e l'hai contaminata anche in delle forme e in dei modi, posso dirlo, molto arditi e molto creativi. C'è qualche scoperta recente che hai fatto da questo punto di vista che proprio non pensavi a livello di abbinamenti, a livello proprio di contaminazione? Ma direi che è molto importante, noi siamo in una zona bellissima, abbiamo gli influssi sia del Mediterraneo che del Nord, e possiamo fare un bellissimo connubio tra tradizione e avanguardia, con i prodotti stratosferici regionali che troviamo da quasi qualsiasi parte. Ultimamente il piatto che facciamo noi, semplice direi, sono le cipolle e lo speck. Ah. Ce lo vuoi dare? Sì, è una crema di sulla base del piatto c'è una crema di sedano rapa, semplicissima crema. Poi ci sono le varie forme della cipolla, cioè la cipolla perlina fritta, c'è il poro invernale semicotto, ci sono le sfere di una crema di cipolla e poi c'è il guanciale sia stagionato che quello fresco in confit. Senti, io leggo nella tua, insomma, alcune tue ricette simbolo carbonara con ostriche, come la mettiamo questa ispirazione, questo abbinamento così all'apparenza strano, immagino di grande equilibrio quando uno lo degusta, ma da dove viene questo spunto per cui sei aperto alla cucina e ai prodotti del mondo? Sì. Cerco sempre di trovare il miglior prodotto possibile, ovviamente da piccoli produttori. Proprio questo piatto è nato dall'idea di ricreare la carbonara, la classica carbonara. In questo caso la salsa è fatta da latticello e le ostriche frullate. Ah, fantastico. In percentuale, quanto sono, adesso dato che siano tutti prodotti di grandissima qualità, quanto sono nella tua cucina bistellata, nel tuo ristorante, i prodotti del territorio, quindi vogliamo usare un termine un po' vecchio, del chilometro zero, e quanti come questo dell'ostrica, del patanegra, del caviale, eccetera, o del wagyu, come leggo? Direi metà più o meno, poi dipende ovviamente dalla stagione, che nel caso nostro dalla primavera in poi, dai primi dell'estate, abbiamo un grandissimo orto accanto alla nostra casa, alla nostra proprietà, e poi lì ci forniamo di tutto quanto frutta e verdura, proprio quello che giornaliero la sera viene proposto nel menù. Fantastico. Bene. Proprio chilometro zero. Metri zero, non neanche chilometri. Grazie. Grazie. A Martin, grazie Mazzona, grazie. Chef del ristorante 2 stelle Jasmine di Chiusa. Lombata di capriolo, ribe e salsa al ginepro, poi altre ricette, adesso soldati, di tutto e di più, fra poco. Mangia come parli, mangia come parli. Oldani che ride perché stavo ragionando su alcuni no, perché durante la fascia ho avuto un moto di cucina tradizionalista e vabbè, provate male alla cacio e pepe, se mi volete bene non fate male alla cacio e pepe, e ci siamo capiti, va bene. Lombata di capriolo, ribe e salsa al ginepro, dai, okay. Torna serio Oldani, ok, passa, torniamo, disossiamo. Va bene, facciamo una cosa, sai che facciamo? Facciamo l'SOS Soldani, perché così almeno recuperi. Fra poco la lombata, eh? Incredibile, lo chef che ride mi fa impazzire. Vai, SOS Soldani, via! SOS Soldani. Allora, Matteo da Civitanova Marche, torna serio, chef, vai. Buongiorno, chef. Posso chiederle perché le uova vanno sbattute girando sempre nello stesso senso? Grazie questa, mille. Questa domanda però aumenta adesso la ridarella che abbiamo. In che senso sempre nello stesso senso? Appunto, infatti io volevo... Adesso torniamo seri, no? Vai. Direi che no, non vuol dire nulla. Le uova, una volta, l'importante è sbatterle aprendole, non come alla scuola alberghiera. Ci fu una ragazza quando il professore disse: Manuela, sbatti le uova, e lei prese un uovo e fece questo gesto vicino all'orecchio. Ah, sì. Senza... Per cui l'importante è non fare questo, non no, fare romperle, questo. No, non fa nessuna differenza. Forse ti è passata. Grazie, Matteo. Fabio Latrani. Ciao chef, per la marinatura di un pesce posso usare anche l'arancia al posto del limone? No, sì. Fabio, tu con quest'arancia puoi fare quello che ti pare, puoi fare. No. Assolutamente, la marinatura è intesa con una parte acida, per cui che sia arancio, limone, bergamotto o anche aceto, secondo me può andare molto bene. Eva da Bassano del Grappa. Buongiorno chef, i capperi, che siano sotto aceto o sotto sale, vanno sempre dissalati prima di usarli? Grazie mille. No, beh, quelli sotto aceto no, hanno una sapidità inferiore, quelli sotto sale assolutamente sì, magari messi solo la sera prima in acqua fredda e poi cambiata almeno 3 o 4 volte. Bene, mi sei tornato in condizione. Allora, facciamo la lombata di capriolo. Lombata di capriolo, ribes, molto facile. Salsa al ginepro, vai. Allora, anche qui siamo molto sulla montagna. Capriolo, prendiamo la sella di capriolo, la smontiamo, la tagliamo in piccoli pezzi, quindi teniamo da parte la nostra lombata, i piccoli pezzi di osso li facciamo appunto sminuzzati, li facciamo tostare in padella per una quarantina di minuti con un filo di olio proprio giusto per poter far sì che si possano rosolare per bene. Aggiungiamo 50 g di carote lavate e tagliate a piccoli pezzi, così come il finocchio lavato e tagliato a piccoli pezzi, una foglia di alloro, bacche di ginepro più o meno 4 o 5, un paio di chiodi di garofano. Dopodiché, una volta che abbiamo fatto rosolare anche le verdure, bagniamo con 3 decilitri di gin, per cui lo facciamo flambare, lo facciamo evaporare, aggiungiamo 2 decilitri di vino rosso, un pino nero va benissimo, che faremo anche lui non flambare perché non ha abbastanza alcol, però lo faremo ridurre totalmente in maniera tale che dia alla salsa un po' di corposità, un po' di dolcezza. Copriremo con 6 decilitri di acqua fredda e un più o meno 20 grammi di marmellata di ribes. In caso non avessimo ribes si potrebbe utilizzare una marmellata di lamponi. Facciamo cuocere il tutto per 1 ora e mezza più o meno, in maniera tale che si riduca il fondo proprio per ottenere una salsa. Filtriamo tutto al colino, aggiungiamo una noce di burro dolce e la teniamo da parte. Prendiamo le nostre lombate di capriolo, tagliamo a nocette di più o meno 40 grammi l'una, un paio per persona. Facciamo arrostire con una noce di burro salata, per cui una volta fatte arrostire dalle due parti lo cuociamo per un paio di minuti per lato, togliamo dalla pentola e lasciamo riposare su una griglia. Molto importante per questa tipologia di carne, dove essendo una lombata e non essendoci grasso dentro, e la cottura deve essere rosa al sangue. Adesso è molto di moda farla quasi bleu anche per la selvaggina, cosa un po' difficile da servire ardita, no? Però ardita. Secondo me è molto buona, per cui il fatto che sia rosa all'interno ci permette di mantenere una carne molto tenera, molto morbida. E cosa faremo? Una volta lasciate riposare almeno 5-6 minuti, la adageremo sul nostro piatto, contorneremo con questa salsa di ribes che abbiamo preparato, questa salsa molto classica, e poi una spolverata di caffè caffa, che dà il profumo, il tocco anche un po' di speziato. Ah, bene, molto molto bene. Senti, abbiamo Gabriele Cagliari, esperto coltivatore di pere, presidente nazionale di Federforest, ex presidente fra l'altro di Coldiretti Trentino Alto Adige, che ha fatto rinascere il Meleto di Tolstoi in Russia. Io posso partire da qui, Gabriele, cos'è questo Meleto di Tolstoi? Ma innanzitutto buongiorno ai nostri radioascoltatori. Lei mi ha già anticipato, giustamente, il Meleto di Tolstoi. Praticamente possiamo, sintetizzando, dire che è il Meleto più famoso, più importante al mondo, patrimonio dell'umanità. È il Meleto dove la madre di Tolstoi, il grande scrittore russo, amava passeggiare e coltivare da perfetta agronoma già alla metà dell'Ottocento. e con dei meli che, se posso banalizzare, sarà fatta, come posso dire, consegnare dall'impero austro-ungarico. Noi al tempo eravamo impero austro-ungarico, l'impero russo aveva chiesto questo tipo di collaborazione e al tempo dalla mia valle, ecco, sono partiti quei meli che ho avuto modo di in qualche maniera. Quindi tu sei partito per la Russia, hai contribuito alla rinascita di quegli ettari, hai innestato sulle mele selvatiche proprio le tipologie del frutteto originale. Loro avevano appunto quel problema, praticamente l'età vale anche per le piante di melo, quindi abbondantemente superata, avevano la necessità di conservare questo tipo di patrimonio. L'unico sistema è reinnestare praticamente su altre piante di melo selvatico quelle varietà, e noi l'abbiamo fatto per 28 varietà, quindi abbiamo dato continuità, non so per quanti anni, ma tanti credo, a questo meleto importante. Cioè. Allora, adesso abbiamo la ricetta del maestro Oldani, quindi fra un po' sentiamo questa mela farcita, anzi, sentiamola subito. Chiedo un consiglio a Gabriele, per una mela, per una preparazione a cotto o a crudo, tu suggerisci le due tipologie diverse oppure un'unica può andare bene? No, diciamo che anche un'unica può andare bene, ma se posso scegliere, se posso, come posso dire, dare un contributo a far meglio, diciamo che ci sono delle varietà appunto che sono molto più indicate per il consumo fresco e delle varietà che sono molto più indicate invece per quello che è la cucina. Ecco, poi mi fermo, non sono uno chef, ma questo ve lo posso garantire. Assolutamente. E allora, la mela, aspetta, l'ultima domanda, una curiosità, la mela la troviamo tutto l'anno? Giusto? Sì. Si trova tutto l'anno. Certo. Ha una stagionalità precisa? Vogliamo dare ai nostri ascoltatori un momento migliore per la mela? Allora, ci sono dei metodi appunto di conservazione molto, molto raffinati e anche molto, come posso dire, assolutamente sostenibili, che consentono di avere la mela tutto l'anno. Però se posso dare delle indicazioni, diciamo che ad agosto, alla fine di agosto, cominciano le prime varietà e comincia la Royal Gala. Poi man mano caro la gala, poi man mano andiamo sulla Golden piuttosto che sulle altre varietà che si affacciano al mercato e finirei con una Fusi che invece è molto più tardiva anche nella nostra stagionalità italiana. Quindi diciamo la mela riesce a essere competitiva in diversi momenti dell'anno proprio grazie alla grande varietà di tipologia, no? Quindi però esiste una stagionalità per ogni singola categoria di mele. Bene, allora al volo abbiamo un minuto, Oldani. Mela farcita, amaretti, cardi, ricotta, fumicata e pinoli, vai! Prendiamo due mele del Trentino Rosso, le tagliamo a metà, leviamo il torsolo, le saliamo leggermente con un sale affumicato, le cuociamo per una decina di minuti in un pentolino con 20 grammi di burro. Prendiamo, le mettiamo da parte e in un'altra ciotola uniamo un po' di ricotta leggermente affumicata, dei cardi che avremo cotto a parte in acqua leggermente salata, acidulata, poi scolati e frullati, un po' di pinoli, più o meno 20 grammi, degli amaretti schiacciati e un profumo di noce moscata. Impastiamo bene il tutto, adagiamo questa nostra farcia sulle quattro mezze mele, le adagiamo a questo punto su un'altra placca, le passiamo sotto il grill della salamandra e le facciamo grigliare per una decina di minuti. Risulterà all'interno morbido, la parte esterna gratinata e terminiamo con l'ultimo tocco della cucina che sono delle foglie di sedano bianco che daranno freschezza al piatto. Mi sembra favoloso. Che mele consigliamo per questo piatto, Gabriele? Ma io per questo piatto mi parrebbe quasi di consigliare una classica Golden, guardi. Ecco, e poi buon appetito perché mi sembrerebbe già di assaggiare. Ecco. Siamo pronti allora, viva la Golden, viva il Trentino, ovviamente anche l'Alto Adige. Grazie a Gabriele Galliani, grazie chef. Grazie. Settimana prossima e torniamo. Vabbè, perché ti ho fatto ridere, quando ridi, poi c'è la tosse, ma è normale, poi non c'è più, cioè, ormai c'è una certa età. Quanti anni hai oggi? Non si dice non oggi. Sei nato il 29 28. Febbraio come gente. Va bene, auguri a tutti i 29ini. Ciao ciao ciao ciao ciao.